Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono a Firenze, sono a Palazzo Pitti perché vi voglio segnalare una mostra davvero da non perdere. Si tratta di una mostra che racconta la storia di uno dei più grandi collezionisti della Casa Medici, cioè del principe cardinale Leopoldo de' Medici. Questo signore era nato nel 1617 e morì nel 1675, era l'ultimo genito del granduca Cosimo II e si occupò dapprima di politica per la famiglia. Poi a un certo punto seguì la carriera ecclesiastica, divenne cardinale, ma passò soprattutto la sua vita a studiare e a raccogliere opere d'arte e cimeli di varia natura. Tra l'altro nella formazione aveva avuto un ruolo molto importante Galileo Galilei, era un cardinale che amava Galileo Galilei, addirittura collezionò gli strumenti che erano appartenuti a Galileo Galilei e quando divenne cardinale cercò di far cancellare il processo a Galileo, purtroppo non ci riuscì. La mostra racconta tutte queste sue passioni dividendo le materie, cioè prima l'archeologia. Questo signore andò a cercare oggetti egizi, oggetti nuragici, naturalmente le antichità romane, bellissime statue, bellissimi bronzi. Poi per la parte del suo amore scientifico ci sono degli oggetti straordinari, quelli di Galileo vi dicevo, ma per esempio anche un elenco di parole, perché era un collezionista di parole, era diventato accademico della Crusca e aveva il compito di trovare parole nuove da mettere nella nuova edizione del vocabolario della Crusca. Ed ecco che lui si specializza in marineria e in agricoltura e fa questo elenco straordinario di pitture. E poi dobbiamo a lui una cosa molto importante, cioè la galleria degli autoritratti degli artisti. Fu il primo dei Medici a chiedere agli artisti: per favore, dammi un tuo autoritratto che io lo metto nella galleria degli Uffizi. Come sapete, oggi la galleria degli autoritratti degli artisti degli Uffizi è la più importante al mondo e dobbiamo a questo grande cardinale questa straordinaria idea. Una mostra davvero da non perdere al Pianterreno di Palazzo Pitti.